fa, 2012, direttamente dalle strade di Palermo, il nuovo singolo. Questo è il suono siciliano, questo è il suono siciliano, questo è il suono siciliano. Io non capisco sta gente che mi accusa, okay. Delitti non fatti, manco fosse alla questura. Gente che rosica i miei punti di sutura. Il ferro è duro e vi si rompe la dentatura. Lo stesso errore, ogni occasione, okay. Meglio non attaccarsi a certe persone, yes. Questo è il mio cammino, quindi mettiti di lato, perché mentre tu mi perdi altri mi hanno già trovato. Mai nato, insegnato, mai rassegnato, e odio chi spicca solo da raccomandato, sì. Tutto questo ambiente è fatto solo di illusioni, di pagine bianche e di storie senza nomi. Gifa rappresenta nuove storie, nuova scuola, dalle strade di Palermo tra bastardi senza gloria. Uso il microfono come una pistola, quindi ascolta ciò che dico, è in goia. Io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, con i piedi per terra, con i piedi per terra. Io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, con i piedi per terra, con i piedi per terra. Gifo quattro lettere, provo un po' a riflettere, oh. Troppe competizioni, zero concetti da trasmettere. Io cerco di uscire dalle righe, Dio, per non credersi tale come tanti, zio, sì, sì. Vive in una vita piena di traguardi, con mille ostacoli da superare, ma ogni cosa può svanire come dei petardi. Avanti, mai rinunciare ai propri sogni, sì, sì. Incubi ne ho già fatti abbastanza, e ho sempre visto, sì, la meta è lontananza. Inutile iniziare se vuoi stare fermo, eh. E tutto quello che ho, me lo porto dentro, me lo porto dentro. Quando manca tutto il carattere si rafforza. Mai visto nessuno che per me si sforza. Riesco a vivere anche se la vita è dura, ma ho bisogno di cambiare, esco da ste quattro mura, oh. Io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, con i piedi per terra, con i piedi per terra. Io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, con i piedi per terra, con i piedi per terra. Io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, con i piedi per terra, con i piedi per terra. Io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, io resto sempre con i piedi per terra, con i piedi per terra, con i piedi per terra.